Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, che attenzione è anche il nome proprio di un progetto europeo, ed è di questo che vi parleremo stasera. Nella prima puntata vi avevamo anticipato d'altra parte come sul tema delle Smart City, nonostante insomma il periodo difficile per l'economia, l'Europa stia investendo molto. Quella delle Smart City è anche stata indicata come una delle 7 priorità fondamentali europee. E naturalmente questa disponibilità e questi investimenti europei sono anche delle opportunità da non perdere per chi? Per le pubbliche amministrazioni, che in questo momento in particolare hanno bisogno di reperire risorse, che naturalmente poi dovranno essere anche spese bene, perché l'Europa su questo non scherza, ma certamente in un momento così difficile è un aspetto interessante. Stasera allora cerchiamo di capire un po' meglio come funziona questo grande progetto europeo sulle Smart City con l'aiuto di Mauro Annunziato, che è coordinatore delle attività di Enea su Ecoindustria e Smart City ed è coordinatore dell'area Urban Energy Networks del progetto europeo nel suo complesso e anche coordinatore del network italiano. Lei coordina un sacco di cose, Annunziato. Buonasera, è un contesto che è nato da poco tempo e c'è molto entusiasmo, c'è grosso fermento in questo settore. Anche perché voi poi non vi danno come di vitalizio dopo che avete coordinato queste robe. No, noi lavoriamo per la gloria. Allora, dunque Annunziato, intanto allora ci dica brevemente, molto brevemente, quali sono i temi che ricadono entro i confini del progetto Smart City, naturalmente per come è stato definito in Europa. Sì, dunque, innanzitutto lo Smart City significa vedere tante tematiche in modo univoco, quindi non separate. Quelle tematiche di cui parliamo sono legate soprattutto all'efficienza energetica, quindi per esempio le reti degli edifici, ad esempio le reti urbane, cioè dalle reti elettriche, l'acqua, il gas, l'illuminazione pubblica e poi la mobilità, che è un tema molto importante. Oltre a questi ci sono temi molto, molto significativi per il cittadino, quindi la partecipazione sociale, la sicurezza e il monitoraggio ambientale, che vanno visti in un contesto più ampio e molto più legati ai temi dell'energia rispetto a quello che si faceva un tempo. Quali sono le risorse che l'Europa ha, come dire, messo sul tavolo? Come diceva lei prima, le risorse sono molto ingenti, perché la tematica della Smart City è stata riconosciuta come una delle 7 priorità, sì, a livello europeo, e quindi il set plan europeo, cioè il piano di finanziamento per ricerca e sviluppo sull'energia, ha stabilito che dal 2013 al 2020 il finanziamento potrebbe essere dell'ordine degli 11 miliardi di euro, quindi molto ingente. E che cosa può portarsi a casa di questi 11 miliardi un paese come l'Italia, ma naturalmente anche come la Francia? Delle proporzioni in base al peso, al numero di abitanti, siamo sopra al miliardo di euro, però devo dire che molto dipende dalla intraprendenza delle pubbliche amministrazioni, perché qua la capacità è tutta in mano al sindaco. Parte tutto dal sindaco, quindi, o comunque dall'amministrazione locale. Ecco, esattamente come funziona il progetto? Dunque, funziona così, che si definiscono quali sono gli obiettivi principali che si vogliono raggiungere e poi si invitano degli istituti di ricerca o anche delle aziende a scambiare delle idee. A dare il contributo. Faccio un esempio di quello che stiamo facendo. Quindi si parte da una esigenza che la città identifica per se stessa. Esattamente, si parte dai bisogni della città, quindi magari una città turistica come è stato ad esempio il caso di Firenze, si è detto abbiamo bisogno di riqualificare tutto il sistema di illuminazione pubblica e di avere una mobilità molto efficiente, ma invece di trattarlo come due cose separate, perché non proviamo a sposarle insieme? Ad esempio, se io conoscessi tutti i flussi di persone, di veicoli che vanno nelle varie strade, io posso regolare l'illuminazione durante la notte in modo tale da risparmiare molta energia. I dati esistono di fatto, ma non sono mai stati messi in comunicazione. Questo quindi è un altro aspetto molto importante, cioè quello che vuole la Commissione è che questi progetti mettano insieme tematiche anche lontane da loro. È questo, come dire, l'elemento smart cercato da chi analizzerà poi questi progetti per decidere i finanziamenti? Assolutamente sì. L'idea è che se io integro due settori, due reti urbane, come ha fatto l'esempio dell'eliminazione pubblica e la mobilità, le integro tra loro, io ottengo un vantaggio notevolissimo, sia in termini di servizi che posso offrire e sia in termini di vantaggi economici. Immaginate che ogni palo di luce diventi un palo intelligente, quindi a bordo anche dei sensori. Perfetto, quindi questo è l'aspetto tecnologico, mi pare che sia molto chiaro. Invece, per quanto riguarda la costruzione del team che partecipa al progetto, abbiamo detto che tutto parte dal sindaco. Da lì in avanti che cosa succede? Come funziona? Quindi, una volta che la città ha identificato le sue priorità, comincia ad invitare gli istituti di ricerca e le aziende che hanno un'eccellenza in quel settore e comincia un dialogo che tipicamente passa attraverso un percorso che arriva fino all'identificazione di quale soluzione tecnologica di riferimento potrebbe soddisfare quel bisogno. Dopodiché si valuta quali sono i costi e i benefici. Ecco, è noto che in Europa fanno molto sul serio quando si tratta di affidare finanziamenti, cioè sono molto attenti e scrupolosi. Quali sono le attenzioni che bisogna avere in questo caso? Beh, soprattutto la concretezza, i progetti che devono essere elaborati devono essere concreti e sostenersi, autosostenersi non soltanto dal punto di vista tecnologico o di innovazione, ma anche dal punto di vista economico, quello che si chiama il modello di business, cioè devono produrre dei ritorni anche economici in termini di energia risparmiata. E per questo è necessario partire immediatamente per arrivare a costruire un progetto credibile, e questo è quello che viene poi guardato a livello europeo. Annunziato, c'è un sito su cui si trovano tutte le informazioni. Il sito è www.era-set.eu. Grazie Annunziato. Prego, arrivederci. Per stasera ci fermiamo qui, ma nel corso delle prossime settimane cercheremo di esplodere questo progetto europeo sulle Smart City e di conoscerlo quindi più nel dettaglio. Per intanto è tutto, buona serata.